Io torno sempre con profondo stupore a quell'antica immagine odiosa e superba, tanto odiosa che io mi sentivo nel raggio del suo sguardo un verme, ed ero indotta a odiare nello stesso istante lei e me. Ritorno a quell'immagine e la confronto con l'immagine familiare e fraterna della mia amica di oggi, fra le più fraterne e familiari immagini che io possa contare al mondo. Nel tempo che io ero al confino, Lola aveva lavorato per un breve periodo come segretaria nella casa editrice. Era però una pessima segretaria e si scordava tutto. Poi l'avevano arrestata i fascisti ed era stata dentro 2 mesi. Aveva sposato Balbo durante l'occupazione tedesca, tra fughe e travestimenti. Era sempre molto bella, ma ora non aveva più i capelli tagliati alla Paggio, compatti come un elmo di ferro. Ora aveva i capelli disordinati e spioventi sulle guance, capelli da indiano, non da donna indiana, ma da uomo indiano, frustati dal sole e dalla pioggia. E l'antico profilo duro e immobile s'era trasformato in un viso ansioso e corrugato, nudo e frustato dalle intemperie, dalla pioggia e dal sole. Tuttavia ancora, a volte, per qualche attimo, ricompariva l'antico profilo sprezzante, l'antico passo dondolante e sdegnoso. Mio padre, ogni volta che la nominavano, diceva subito che era bellissima. Molto bella quella Lola Balbo, molto bella. I Balbo abitavano sul corso Re Umberto, avevano una casa al pian terreno e la porta era sempre aperta. Gente di continuo entrava e usciva, amici di Balbo, i quali lo accompagnavano alla casa editrice, lo seguivano al caffè Platti dove lui usava prendere il cappuccino, rincasavano con lui e parlavano con lui fino a tarda notte. Se venendo non lo trovavano in casa, sedevano ugualmente in salotto e parlavano fra loro, passeggiavano per i corridoi, s'appollaiavano sul tavolo dello studio, avendo imparato da lui a non avere orari, a non ricordarsi mai di andare a cena e a discutere senza tregua. Lola era quanto mai stufa d'aver sempre tanta gente per casa. Faceva tuttavia ugualmente le cose che aveva da fare, si occupava del suo bambino con una mescolanza di apprensione e di fastidio, perché anche lei, come Lisetta, non sapeva tanto bene far da madre, essendo passata dalle nebbie dell'adolescenza alle intemperie della vita adulta bruscamente e senza soluzione di continuità. Le piaceva ogni tanto, affidato il bambino a sua madre o a sua suocera, vestirsi con grande eleganza, mettersi delle perle, dei gioielli e uscire sul corso Re Umberto come un tempo, camminando a passi lenti e con gli occhi socchiusi, tagliando l'aria col profilo aquilino. Quando rientrava e trovava ancora in casa la gente che aveva lasciato, seduta a discutere sulla cassapanca dell'ingresso o appollaiata sui tavoli, lanciava uno strido esasperato, lungo, gutturale, al quale nessuno badava. Usava, in assenza del marito, nominarlo con dolci appellativi e lamentare la sua momentanea assenza con uno strido lungo e gutturale, ma tenero, come di colomba che chiama il compagno. Ma poi, non appena lo vedeva, immediatamente lo rimbrottava, o perché lui arrivava sempre in ritardo a pranzo, o perché l'aveva lasciata uscendo senza un soldo per fare la spesa, o perché si diceva esasperata per quella porta di casa sempre aperta e quella gente che andava e veniva. Così prendevano a litigare, lui armato di sottili cavilli e lei di null'altro che della sua furia, e le ragioni e i torti dell'uno e dell'altra si mescolavano in un viluppo inestricabile. Non erano del resto mai soli, nemmeno quando litigavano, e lei gettava anche sugli amici presenti, a caso, qualche insulto, gridando che se ne andassero via, ma quelli non si sognavano di muoversi e aspettavano, calmi e divertiti, che la bufera fosse passata. Thank you. Balbo mangiava a pranzo sempre le stesse cose, e cioè riso al burro, una bistecca, una patata, una mela. Queste erano le cose che lui doveva mangiare, avendo avuto in guerra l'ameba. «C'è la bistecca?» chiedeva inquieto, sedendosi a tavola. E appena veniva rassicurato su questo punto, si metteva a mangiare distratto, continuando insieme e a parlare con i suoi amici, sempre presenti al suo pasto, e a litigare, argomentando con sottili cavilli con sua moglie. «È noioso», diceva Lola rivolta agli amici. «Lo trovo noioso, sì, c'è la bistecca! Che noia, sempre con queste bistecche! Se mangiasse una volta delle uova al tegame!» E rievocava il tempo della resistenza a Roma, quando erano nascosti senza una lira e lei doveva correre la città per cercargli alla borsa nera il burro, la bistecca e il riso. Balbo spiegava che lui le uova al tegame non poteva mangiarle, gli facevano male. «Non mi piacciono questi tuoi amici», Lola si lamentava. «Non hanno una vita privata, non hanno mogli, figli, o se li hanno non se ne curano. Stanno sempre qua». Il sabato e la domenica la casa si faceva deserta. Lola affidava il suo bambino alla suocera e andavano, lei e il marito, a schiare. «Com'era carino ieri», diceva Lola del marito al mattino del lunedì, rivolgendosi agli amici ricomparsi. «Era così carino, se l'aveste visto. Sa schiare come un maestro di ski. Sembra un ballerino. Non era per niente noioso. Ci siamo così divertiti. Adesso ecco che è di nuovo noioso». Andavano a volte lei e il marito al night club a ballare. Ballavano loro due fino a notte tarda. «Ci siamo così divertiti», Lola poi diceva. «Lui balla così bene il valzer, balla così leggero». E lanciava all'indirizzo del marito, che in quel momento si trovava all'ufficio, quel suo strido gutturale tenero di colomba, appendendo nell'armadio il vestito da sera. Balbo a volte diceva alla moglie: «Comprati un vestito da sera nuovo, mi diverte». Lei, per divertirlo, si comprava un vestito. E poi ne era scontenta. Scopriva che era un vestito assurdo, che non lo avrebbe messo mai. «Quello stupido», diceva. «Per divertirlo mi è toccato comprarmi un vestito che non ha nessun senso». Lola non aveva mai più lavorato dopo quel breve periodo che era stata segretaria alla casa editrice. Lei e il marito erano d'accordo nell'affermare che era stata una pessima segretaria. Ma entrambi erano anche d'accordo nell'affermare che un lavoro per lei doveva esistere. Non si sapeva bene quale, bisognava scoprirlo. Balbo chiedeva anche a me di scoprire, fra i mille lavori di cui formicolava la terra, un lavoro che Lola potesse fare bene. Lola usava sempre rievocare con grande nostalgia il tempo che era stata in carcere. «Quando ero in galera», diceva spesso. In galera, diceva, s'era sentita molto a suo agio, finalmente a posto, in pace con se stessa, libera di complessi ed inibizioni. Aveva fatto amicizia con delle ragazze jugoslave che erano dentro per motivi politici e anche con delle detenute comuni. Trovava con loro le parole giuste e s'era conquistata la loro fiducia. E le altre carcerate si stringevano tutte intorno a lei per avere aiuto e consiglio. I discorsi che facevano Balbo e sua moglie intorno a un possibile lavoro di lei finivano sempre sulla galera e tutte e due concludevano che occorreva cercare per lei un lavoro nel quale si sentisse, come quando era in galera, del tutto a suo agio, libera e senza inibizioni e pienamente padrona delle sue forze. Un lavoro così sembrava però non facile da scovare. Le accadde più tardi d'ammalarsi e dovette stare per breve tempo in un ospedale. E all'ospedale ritrovò un poco, fra le ragazze malate, la sua forza di capopopolo, che rinasceva evidentemente nei momenti drammatici di tensione, di rischio e di emergenza. Lisetta a Roma s'era trovata un lavoro. S'era impiegata all'associazione Italia URSS. Aveva imparato il russo. S'era messa a studiarlo subito dopo la guerra, insieme a Lola e a me. E lei l'aveva imparato, e invece noi c'eravamo fermate per strada. Lisetta, dunque, andava ogni giorno all'ufficio e riusciva a mandare avanti la casa, e ora si occupava anche dei suoi bambini. Dei bambini, però, fingeva di non occuparsene e fingeva che fossero, benché piccolissimi, del tutto indipendenti da lei. Veniva ancora nelle vacanze a Torino e portava i bambini con sé. Quando le chiedevamo dove erano i bambini, prendeva un'aria distratta e svagata e diceva che non si ricordava bene dove li avesse lasciati. Le piaceva darci da intendere che li mandava da soli a giocare in strada. In verità i bambini erano al giardino pubblico con la nonna e la bambinaia che li guardavano. E lei li andava a riprendere appena veniva buio, con sciarpe e berretti, essendo diventata, senza accorgersene e senza confessarlo né a sé né a nessuno, una madre tenera, scrupolosa e apprensiva. Anna Bonaiuto ha letto Lessico familiare di Natalia Ginzburg. Regia di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini. A cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it